L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, nella prossima ora vi racconteremo come sempre le notizie più importanti dell'ultima settimana. Cominceremo da sabato scorso 8 novembre e arriveremo fino a ieri. I servizi, le interviste e i commenti che riascolterete sono già andati in onda come sempre nei GR di Radio 24. Sabato. Cominciamo dalla politica, come sempre ci sono tante questioni in ballo, su tutte direi la disputa, i colpi di scena sulla vigilanza Rai, tra poco ci arriveremo, ma proprio sabato scorso torna invece a circolare una parola molto di moda nella politica italiana di una decina di anni fa, una parola che peraltro all'epoca non ebbe grossa fortuna. Da Roma sentiamo il servizio di Vincenzo Miglietta. È un dialogo che sembra ripartire, quello tra maggioranza ed opposizione su riforme e federalismo, a fare da apripista su questi delicati temi Fini e D'Alema. Per la modifica degli assetti costituzionali, dicono entrambi, un buon punto di partenza potrebbe essere la bozza Violante approvata nella scorsa legislatura. Quanto al federalismo fiscale, Fini auspica che si affidi ad una commissione bicamerale la valutazione dei decreti attuativi. Così il presidente della Camera. Molto più attento ad un interesse generale, oltre che al ruolo del Parlamento, un'ipotesi quale quella di una commissione bicamerale finalizzata all'esame dei decreti. Per D'Alema sul federalismo è necessario modificare in alcune parti la bozza Calderoli, l'esponente del PD apre poi così alla commissione bicamerale. Rassicuro il presidente Fini che certamente noi presenteremo un emendamento per l'istituzione di una commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e della carta delle autonomie locali. Sì, ad un miglioramento del testo, commenta Calderoli, che sulla bicamerale però frena: una commissione ad hoc costerebbe troppo, è possibile utilizzare, spiega il ministro, quella per gli affari regionali. Ho già accennato prima la questione della vigilanza Rai, che si trascina ormai da mesi, fino a poche settimane fa in particolare, assieme alla nomina del giudice della Consulta, era forse al centro delle preoccupazioni del Presidente della Repubblica. Poi la vicenda della Consulta è stata sistemata, anzi ieri, dopo 40 minuti di Camera di Consiglio, è stato eletto il 32esimo Presidente della Consulta, da Giovanni Maria Flick. Ma veniamo quindi alla questione della vigilanza Rai, che storicamente viene assegnata all'opposizione. Ma siamo ancora in alto mare. Giovedì, dopo un numero impressionante di voti senza esito, arriva un incredibile colpo di scena. Sentiamo Dario Ricci e poi il commento di Stefano Folli, ieri in diretta nel GR Extra Large delle 13. Riccardo Villari si dimetterà da presidente della commissione di vigilanza della Rai. L'esponente del Partito Democratico è stato infatti eletto con i soli voti della maggioranza e di due franchi tiratori, dopo che il Popolo delle Libertà aveva bocciato la candidatura di Leo Luca Orlando proposta dal centro-sinistra. Il premier Berlusconi. Dopo mi sembra tre mesi con cui abbiamo cercato di trovare un accordo con l'opposizione, avendo accettato anche di cambiare il candidato che avevamo proposto per la Corte Costituzionale, pensavamo che l'opposizione, seguendo il nostro esempio, il nostro gesto di buona volontà, facesse altrettanto. Durissima la reazione dell'opposizione. Berlusconi è come il generale argentino Videla, ha tuonato il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Ferma la posizione anche del leader del Partito Democratico, Walter Veltroni. Che la maggioranza, che ha preso tutte le commissioni, decida di decidere lei chi è il rappresentante dell'opposizione che deve presiedere una delle due commissioni di garanzia che spettano all'opposizione, è una cosa che avviene nei regimi veramente, non avviene in democrazia. È un colpo di mano parlamentare che ha messo in difficoltà il centro-sinistra, perché è vero che l'opposizione deve indicare lei il candidato alla presidenza della commissione. D'altra parte si era creato anche una paralisi che andava avanti da mesi e mesi, perché c'era stato questo blocco dell'opposizione sul candidato di Di Pietro, Leo Luca Orlando, che non era accettato dalla maggioranza e non votato, fino appunto allo strappo di ieri. Adesso che cosa può succedere? Probabilmente si dimetterà Villari. Se non lo facesse sarebbe una delegittimazione molto grave di tutto il vertice politico del Partito Democratico. Ecco perché. Beh, anche perché a più voci gli stanno chiedendo appunto al Partito Democratico che si dimetta, una situazione sì, abbastanza paradossale. Non dimentichiamo che Villari ha avuto due voti in più ieri nella votazione che lo ha eletto Presidente della Commissione. Questi due voti sono franchi tiratori che sono venuti dal centro-sinistra, quindi la situazione non è tanto semplice. All'interno del centro-sinistra si sono create una serie di tensioni interne, di malumori, che hanno trovato un appiglio sul caso Villari. Ecco perché per Veltroni è essenziale che Villari si dimetta. Sempre giovedì non c'è soltanto la vicenda della vigilanza Rai, perché poche ore dopo, in serata, l'attenzione si sposta a Genova. Intorno alle 21 arriva infatti la sentenza di quello che è il più importante dei processi messi in piedi sul G8 di Genova del 2001, quello segnato tragicamente dalla morte di Carlo Giuliani. Si tratta del processo per l'irruzione alla scuola Diaz. Oltre ai 29 imputati è sotto accusa un'intera classe politica che organizzò quel vertice e quindi ne aveva delle responsabilità. Sentiamo da Genova il servizio di Andrea Ferro e poi l'intervista che Cristina Carpinelli ha fatto ieri al sindaco di Genova, Marta Vincenzi. Il presidente del tribunale Gabrio Barone ha appena terminato di leggere la sentenza. In aula esplode la tensione tra il pubblico e le parti lese che contestano l'assoluzione degli imputati eccellenti, gli alti dirigenti di polizia che la sera del 21 luglio del 2001 parteciparono al blitz nella scuola Diaz. Tra gli assolti ci sono Giovanni Luperi, capo del Dipartimento Analisi dell'AISI, Francesco Gratteri, ai vertici dell'anticrimine, e Gilberto Caldarozzi, numero uno del servizio centrale operativo. Dopo 3 anni, 208 udienze e 11 ore di camera di consiglio, per i fatti della Diaz sono stati giudicati responsabili i poliziotti del reparto mobile di Roma che per primi fecero irruzione nella scuola e quelli che introdussero le Molotov come false prove contro gli occupanti. Tra i condannati l'allora dirigente del reparto mobile di Roma Vincenzo Canterini, nei confronti del quale è stata emessa la pena più alta, 4 anni, 3 dei quali condonati per effetto dell'indulto. Complessivamente il tribunale ha formulato 13 condanne per 35 anni di carcere e 16 assoluzioni. I PM avevano chiesto 28 condanne in tutto, 108 anni di reclusione. Durissime le reazioni degli esponenti della sinistra, c'è chi parla di morte della giustizia e definisce la sentenza una delle pagine più nere della storia repubblicana. Tra gli esponenti del centrodestra si sottolinea invece il fallimento del teorema del complotto da parte della polizia. Nella mia, diciamo, posizione non è certo quella di smontare una verità tipo giudiziario, che però mi sembra di poter dire che questi processi hanno messo in luce alcune responsabilità che è apparso evidente, come in questo caso alla Diaz le Molotov siano state portate e non ci fossero, ma non hanno chiarito l'insieme delle responsabilità, quella che viene definita poi genericamente la catena di comando, no? Intorno alla quale poi si sono determinate le decisioni e sono avvenute davvero i fatti. Per questo lei poi di fatto sta chiedendo, e lo sta chiedendo anche Pericu, che venga istituita un'inchiesta parlamentare? Sì, l'ho chiesto fin dall'inizio, certo sarebbe stato meglio farla 7 anni fa, la richiedo adesso come sindaco. Il nostro paese, questa città se ne fa interprete, credo correttamente, ha bisogno anche di poter dire al mondo che siamo una terra di civiltà giuridica e democratica. L'ottavo giorno. Domenica. Ora ci tuffiamo a piedi uniti nel piatto, purtroppo ricco di cattive notizie, dell'economia. Ieri infatti è cominciato a Washington il G20 proprio sulla crisi economica, ma già una settimana fa c'era stato, per così dire, una sorta di antipasto a San Paolo in Brasile, con l'incontro dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20. Sentiamo da San Paolo l'analisi di Alessandro Merli, andata in onda nel GR delle 7 di lunedì. Tocca alle banche centrali chiudere oggi la 3 giorni di San Paolo, in cui le autorità dei grandi paesi industriali e delle nuove economie emergenti sono andate alla ricerca della ricetta giusta, la ricetta per stabilizzare i mercati finanziari globali dopo la crisi che li ha investiti da quasi un anno e mezzo e limitare i danni di una recessione economica ormai apparente. Ieri il G20, che raccoglie i 7 grandi e i paesi emergenti come Brasile, Cina e India, si è detto disposto a interventi di politica fiscale per impedire la paralisi delle economie. Questa mattina invece, ed è forse l'appuntamento più atteso dai mercati, si riuniscono nella capitale paulista i governatori delle banche centrali per valutare se esistono gli spazi per tagliare di nuovo i tassi di interesse dopo le riduzioni della scorsa settimana. La brusca frenata delle economie e il crollo dei prezzi delle materie prime stanno già facendo scendere l'inflazione e questo dovrebbe aprire margini di manovra per la riduzione del costo del denaro. Per completare quello che ha detto Merli nel suo servizio, ricordo che Trichet, il presidente della Banca Centrale Europea, non ha escluso nuovi tagli dei tassi di interesse. Intanto la Cina annuncia una nuova manovra tecnicamente di stimolo da quasi 600 miliardi, una manovra quindi molto importante per anticipare, se vogliamo, il pericolo della crisi e della recessione. Noi invece proseguiamo in ordine cronologico il racconto di questa settimana economica, perché lunedì arrivano i dati davvero negativi sulla produzione industriale in Italia. Sentiamo Valeria De Rosa. Che l'industria soffrisse non era una novità, certi numeri però non si vedevano da 10 anni. Nel settore auto il calo della produzione è stato superiore al 26% e non sono solo le quattro ruote a soffrire, anche i beni non durevoli languono, meno 3,5% la flessione mensile. In realtà questi dati erano attesi e la ragione sta in un concorso di cause, come spiega Luca Paolazzi, capo ufficio studi di Confindustria. Sulle cause normali della recessione, cioè il rialzo dei prezzi le materie prime, la rivalutazione del dollaro, la crisi immobiliare, si è innescata la crisi finanziaria. Come dicevamo, la sofferenza dell'industria non è una novità. La media dei primi 9 mesi segna un calo del 2-3%. A ottobre forse assisteremo a una stabilizzazione, ma la fine dell'anno non porterà miracoli. In Europa non siamo gli unici, ma il ministro dell'economia ha affermato che da qui a Natale tutti gli stati membri prenderanno i loro provvedimenti contro la crisi. Poi, parlando del nuovo accordo internazionale, Tremonti ha sottolineato che non potrà essere limitato alla finanza, dovrà affrontare anche il commercio, il lavoro e l'ambiente. Per l'Italia, il ministro ha annunciato a breve la riunione straordinaria del CIPE per sbloccare i finanziamenti pubblici. Mercoledì invece è una giornata importante soprattutto negli Stati Uniti. In attesa del compimento della transizione tra Bush e Obama, e tra poco dedicheremo uno spazio ad hoc proprio al nuovo presidente americano, il segretario al tesoro che è ancora in carica, Paulson, naturalmente prosegue nel suo lavoro. Da New York sentiamo il servizio di Marco Valsania. Tempi di svolte per i grandi salvataggi finanziari negli Stati Uniti. Il ministro del tesoro Henry Paulson ha annunciato un cambiamento nel piano da 700 miliardi di dollari per le banche, ha abbandonato l'obiettivo iniziale di comprare asset tossici e si concentrerà nell'investire nel capitale degli istituti, una strada già avviata che ha visto il governo impegnare 250 miliardi. Paulson, in funzione anticrisi, ha inoltre ipotizzato un nuovo sostegno al mercato del credito al consumo, dai prestiti per l'auto alle carte di credito, e ha chiesto alle società finanziarie che in futuro vorranno accedere agli aiuti di raccogliere anche capitali privati. Contemporaneamente i leader democratici, con il futuro presidente Barack Obama in testa, stanno lavorando alla cremente agli aiuti all'auto. Stanno redigendo una legge da discutere la prossima settimana che sblocchi subito miliardi di dollari per General Motors, Ford e Chrysler, forse dal tesoro, forse dalla Federal Reserve o forse da prestiti originalmente destinati a sviluppare auto più efficienti. Obama ha anche incaricato una squadra speciale di seguire la crisi di Detroit, guidata dal docente di Georgetown Daniel Tarullo, dal governatore del Michigan Jennifer Granholm e dall'ex deputato David Bonior. Giovedì giunge la notizia che un'altra vittima illustre è ormai caduta nella rete della recessione. Si tratta della Germania, addirittura per tanti anni la locomotiva europea. Da Francoforte il servizio è di Beda Romano. La Germania è in recessione. Il paese ha registrato una contrazione dell'attività economica anche nel terzo trimestre, sulla scia di un secondo trimestre anch'esso negativo. È la prima recessione in 5 anni e la peggiore in 12. L'esposizione internazionale dell'economia tedesca è diventata improvvisamente un handicap per il paese più popolato della zona euro. Squilibrato sul fronte dell'export in un momento di rallentamento del commercio mondiale, la Germania non può contare su una domanda interna solida e stabile. Il dato, pubblicato ieri dall'Ufficio federale di statistica, si rifletterà nelle cifre che saranno rese note oggi a livello di zona euro. Anche l'Unione monetaria è probabilmente in recessione, tanto che la Banca Centrale Europea è destinata a ridurre ulteriormente il costo del denaro in dicembre per la terza volta in 2 mesi. E ieri arriva l'annuncio che noi avremmo naturalmente fatto volentieri a meno di sentire, ma ormai era nell'aria da tempo, e se vogliamo nelle nostre tasche, cioè l'Italia è in recessione. Parola dell'Istat, infatti nel terzo trimestre del 2008 il PIL italiano è calato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e addirittura dello 0,9% rispetto al terzo trimestre del 2007. Questo è l'intervento ieri nel GR Extra Large di Mario De Aglio, docente di economia internazionale alla Università di Torino. Questa recessione l'Italia arriva dopo un lungo periodo di stagnazione che sostanzialmente con un intervallo di 18 mesi risale al 2001, mentre il resto d'Europa ci arriva da un periodo abbastanza lungo, cioè 3 anni e mezzo di moderata espansione. Quindi la recessione da noi arriva su un corpo malato, per gli altri su un corpo moderatamente sano. Quanto sta influenzando anche questa crisi finanziaria? Si parla spesso della possibilità di trasmettere la crisi dal mondo appunto della finanza all'economia reale, ma effettivamente sta avvenendo così? Direi che comincia ad avvenire, non sappiamo quanto effettivamente inciderà, ma nell'ultimo mese e mezzo effettivamente gli stimoli negativi sono passati in tutto il mondo dalla finanza all'economia reale. Da noi ancora relativamente poco, negli Stati Uniti in maniera da collasso. Professore, nel momento nel quale stiamo parlando, probabilmente in realtà i leader mondiali stanno ancora dormendo, però insomma si riunirà in giornata, inizieranno a riunire i vertici dei paesi del G20 per cercare una soluzione. Quello che sta emergendo in queste ore è fondamentalmente spesa pubblica e abbassamento dei tassi. Insomma, tornano le teorie keynesiane? Sì, direi che l'unica medicina che serve in caso di emergenza, però ha molte controindicazioni, cioè la spesa pubblica richiede tempo per essere fatta e forse è meglio detassare che spendere pubblicamente in questi casi, cioè lasciare più soldi in mano alla gente, soprattutto ai redditi bassi, perché così li spendono e tengono a galla l'economia. Lunedì. È il giorno dello sciopero generale nei trasporti, sono fermi le metropolitane, gli autobus, i tram e anche i treni, quindi le città sono letteralmente paralizzate. Sentiamo allora in rapida successione come è trascorsa la giornata a Roma e poi a Milano. Prima Francesca Malaguti in diretta alle 19 di lunedì e poi il servizio in onda invece alle 13 di Cristina Carpinelli. Qui a Roma autobus, tram e metropolitane sono in sciopero dalle 8.30 di questa mattina. Ora siamo nella fascia in cui i mezzi sono garantiti, ma lo sciopero riprenderà dalle 20 fino a fine servizio. Fino alle 17 erano davvero pochissimi gli autobus in circolazione. Lo sciopero del trasporto locale è iniziato questa mattina anche nelle altre città italiane. A Milano, dopo la fascia garantita, le corse sono di nuovo sospese dalle 18 fino a fine turno. A Napoli siamo ora in fascia garantita, ma lo sciopero riprenderà dalle 20 fino a fine giornata. A Torino lo stop è ripreso alle 15 e continuerà fino a fine servizio. A Bologna e Venezia il fermo dei mezzi riprende alle 19.30 fino a fine turno. Lo sciopero nazionale dei treni è iniziato invece alle 21 di ieri sera e continuerà fino alle 21 di questa sera. Dalle 18 fino a fine giornata sono però garantiti alcuni treni locali per i pendolari. Alla mobilitazione hanno aderito CGIL, CISL, UIL, UGL, oltre ad alcune sigle autonome. I sindacati parlano di adesioni oltre l'80% sia per il trasporto locale che per quello ferroviario. Alcuni turisti restano disorientati davanti alle metropolitane serrate per lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano, che ha visto un'adesione quasi totale. Chi doveva andare al lavoro si è svegliato un'ora prima ed è arrivato un'ora dopo. Sì, sapevo dello sciopero, però siccome dovevo andare a lavorare ho preso quindi i mezzi per arrivare a lavorare, però ho avuto grossa difficoltà questa mattina. A Cadorna ogni tanto passa un tram, qualche autobus parte da Piazzale Lotto, qualche lavoratore dell'ATM avrebbe preferito un'astensione ancora più drastica. Per me bisogna essere compatti tutti quanti insieme, non uscire dal mattino, perché giustamente lo sciopero bisognerebbe farlo in questo senso, portare le persone a lavorare e poi riportarle a casa. Per me questo tipo di sciopero non ha senso, a lasciare soltanto una persona che per esempio deve andare a fare la spesa, mi lasci soltanto il vecchietto a casa, non ha senso. Di scioperi parleremo ancora qui all'ottavo giorno, c'è per esempio tutta la vicenda di Alitalia e poi la grande manifestazione di ieri contro la Gelmini, ma in settimana si consuma anche lo strappo pesantissimo tra CGIL e le altre sigle sindacali. Il giorno incriminato è mercoledì, da Roma sentiamo Vincenzo Miglietta. Una rottura annunciata, quella tra i sindacati confederali, da una parte la CGIL e dall'altra CISL e UIL, ad allontanare Epifani da Bonanni e D'Angioletti, la mancata partecipazione del primo al vertice convocato ieri dal Presidente del Consiglio Berlusconi con imprenditori e sindacati sulle misure per il sostegno a famiglie ed imprese. Quello che è accaduto ieri sera, ha detto Epifani, è gravissimo, una cosa senza precedenti che apre di fatto un problema formale nei rapporti con CISL e UIL e con l'Associazione degli Industriali. È una brutta pagina. per il governo e per chi non ha avuto niente da ridire in questa modalità. Il clima tra le tre confederazioni non era però già dei migliori. Da tempo CISL e UIL accusavano la CGIL di dire no su tutto, dalla riforma del modello contrattuale alla trattativa sugli statali, passando per alcuni giorni anche per la delicata questione all'Italia. Il fronte istruzione poi, a sorpresa oggi la CISL, si è sfilata dall'annunciato sciopero dell'università previsto per venerdì 14. Anche la UIL sembra prendere tempo. Bonanni si difende, c'è stato un passo avanti che potrebbe aprire una nuova fase di confronto con il governo e la Gelmini. Dalla CGIL replicano: andiamo avanti verso lo sciopero generale del 12 dicembre. L'ottavo giorno. Martedì. La sentenza della Cassazione sulla lunga, triste, direi anche penosa vicenda di Eluana Englaro è ormai vicinissima, è imminente, infatti non a caso arriverà giovedì. Ma a scuotere l'opinione pubblica è tutto il dibattito che è attorno al caso Englaro, penso alla questione eutanasia o testamento biologico, è l'intervento perentorio della Chiesa. Sentiamo Maria Luisa Pezzali. Una mostruosità e un assassinio. Staccare il sondino che alimenta Eluana e lasciarla morire è una cosa disumana. Questo è il messaggio del Vaticano per bocca del cardinale Barragan, presidente del Pontificio Consiglio per la Salute, ai giudici della Corte di Cassazione in Camera di Consiglio da ieri sul caso Englaro. Devono decidere se accogliere il ricorso della Procura Generale di Milano contro il via libera all'interruzione dell'alimentazione artificiale deciso lo scorso luglio dalla Corte d'Appello. Ricorso inammissibile secondo il procuratore generale della Suprema Corte Domenico Iannelli, che ha chiesto alle sezioni unite di rigettarlo. È il momento di lasciare morire Eluana, come chiede il padre, dice Vittorio Angiolini, legale di Beppino Englaro. L'avviso del procuratore sulle inammissibilità è in linea con quanto anche noi avevamo sostenuto nel controricorso. Bisogna lasciare alla Corte la serenità per prendere questa decisione. Vedremo che cosa decide la Corte, ho fiducia nella Corte. Giovedì, come annunciato, arriva la sentenza che potrebbe mettere fine, uso il condizionale perché in questa vicenda davvero ne sono successe di tutti i colori, dicevo, potrebbe mettere fine alla vicenda e naturalmente poi fare scuola, diventare un caso di giurisprudenza. Sentiamo i dettagli della sentenza con Raffaella Calandra e poi le reazioni descritte da Roberta Pellegatta. Eluana ora se ne potrà andare, ora c'è il sigillo definitivo della Cassazione alla battaglia che il papà Beppino Englaro porta avanti da 6.146 giorni dopo che uno schianto d'auto fece precipitare la figlia nel buio del coma vegetativo permanente. Quasi 17 anni dopo, ora il sondino che la tiene in vita potrà essere staccato col consenso della legge, ora che la Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso della Procura Generale di Milano, rende esecutivo il verdetto della Corte d'Appello Meneghina, che a luglio aveva stabilito il diritto della ragazza a morire una volta accertato il coma irreversibile e ricostruite le sue volontà. In modo esaustivo, la Corte, scrivono gli Ermellini, ha valutato la straordinaria tensione del carattere di Eluana verso la libertà. Qui, aggiungono, si tratta di un diritto personalissimo all'autodeterminazione terapeutica. Per papà Englaro questa sentenza è la conferma che siamo in uno stato di diritto, per lui che sempre ha invocato la volontà della figlia in questo calvario passato attraverso 8 sentenze e una pronuncia della Consulta. Lei era andato a trovare un suo amico. Nella stessa condizione sua era venuta in famiglia dicendo: se succede una cosa del genere voi dovete intervenire e sospendere. Ora da Lecco Eluana potrà essere trasferita, forse ad Udine, in una struttura che possa garantirle quel dignitoso finale accudimento richiesto dai giudici e per il quale il padre ha combattuto anni. Eluana è ormai incamminata verso la morte, secondo la CEI, l'Assemblea Permanente dei Vescovi, che richiama la loro responsabilità morale quanti si stanno adoperando a porre termine alla sua esistenza. Il Vaticano non esita ad equiparare lo stop all'alimentazione e all'eutanasia. Monsignor Rino Fisichella, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ospite ieri a Porta a Porta. Togliere idratazione, togliere il nutrimento a una persona in stato vegetativo di fatto significa ucciderla e quindi il giudizio morale, etico, non può che essere negativo. E la sentenza della Cassazione divide il mondo politico. Il centrodestra si allinea alle posizioni del mondo cattolico. La sentenza consente un'uccisione, introducendo di fatto nel nostro paese l'eutanasia o addirittura, come ha dichiarato il governatore della Lombardia, Lombardia, Roberto Formigoni, la condanna a morte. Una sentenza che è invece un atto di civiltà per l'opposizione, che da più parti invoca una legge che finalmente regoli in Italia una materia tanto delicata, perché, come ha sottolineato la senatrice del PD Anna Finocchiaro, non possono e non devono più essere i tribunali a prendere decisioni così importanti. Una decisione a cui ha applaudito Maria Antonietta, vedova di Luca Coscioni e deputata radicale, secondo la quale i giudici hanno dimostrato di essere in sintonia con la maggioranza del paese. E adesso sulla sentenza della Cassazione sul caso Englaro, che lo ricordo ha respinto il ricorso della Procura Generale, sentiamo il parere di Valerio Onida, che è presidente emerito della Corte Costituzionale. Lo ha intervistato Paolo Piacenza. Adesso la nuova sentenza, quella appena uscita, è una sentenza che semplicemente dichiara, se ho letto bene, inammissibile il ricorso fatto dalla Procura Generale contro il decreto della Corte d'Appello di Milano. Quindi quella, diciamo, che nel merito dice di più è la sentenza della Cassazione, quella precedente, quella di un anno fa circa. La sentenza di Cassazione, che come tutte le sentenze di Cassazione indica un orientamento giurisprudenziale, ma è relativa solo a quel caso, non è che vincola i giudici per il futuro, come per altri casi. A suo avviso la sentenza di Cassazione, anche quella precedente, si è mossa in una traccia corretta? A me pare che la sentenza della Cassazione fosse assolutamente corretta in tutta la parte in cui afferma l'esistenza di un diritto dell'interessato quando sia cosciente, quindi in grado di esprimersi su questi problemi del fine vita, delle cure nelle condizioni estreme di malattia, e quando afferma quindi che nel caso in cui l'interessato non sia in grado di esprimere la propria volontà, nessuno può sostituire la propria volontà a quella dell'interessato. L'ipotesi del cosiddetto testamento biologico è una ipotesi che darebbe rilievo alla volontà espressa dall'interessato anticipatamente. In questo caso concreto non c'era nessun testamento biologico, e allora la Cassazione diceva che si poteva accertare quale fosse l'effettiva volontà dell'interessata attraverso altri strumenti. Questa è la parte, diciamo così, più discutibile. Adesso non ci resta che vedere gli sviluppi, non soltanto per la povera Eluana, ma per i tanti casi simili che purtroppo sono disseminati un po' in giro per l'Italia. Ci tengo a sottolineare che il punto centrale però della sentenza Englaro è il consenso informato, cioè il fatto che il paziente può accettare o rifiutare le cure una volta che il medico gli abbia spiegato che cosa succede. E poi a pagina 6 della sentenza si legge che la Cassazione non giudica questo rifiuto come una possibilità di ipotesi di eutanasia. Intanto in Inghilterra c'è una vicenda molto diversa dal caso Englaro, ma che, come la storia di Eluana, tocca le coscienze e sconfina nel campo spesso indefinibile dell'etica. Da Londra, Giorgia Scaturro. La frangetta bionda e il nasino puntellato di lentiggini ad incorniciare i suoi occhi, socchiusi dalla sofferenza dopo 8 anni passati dentro e fuori l'ospedale. Anna, 13 anni, ha perso la sua battaglia contro la leucemia che le ha provocato una cardiomiopatia, una fatale disfunzione cardiaca, ma oggi ha vinto la causa contro l'Hereford County Hospital, che si era opposto al suo rifiuto di un trapianto di cuore, l'ultimo tentativo di salvarle la vita. L'ospedale stava cercando di sottrarla alla potestà dei genitori che sostenevano la scelta di Anna. La bimba è riuscita a convincere il tribunale che un trapianto non sarebbe però la soluzione migliore per lei e dunque non sarà operata. Un caso che ha scioccato la Gran Bretagna, quello della bimba Coraggio, che dopo molti inutili interventi cardiaci ora ha detto basta. I dottori mi hanno spiegato le conseguenze, ha detto Anna, ma io voglio tornare a casa anche se so che non sopravviverò. Mercoledì. Direi che il tema che è tornato più spesso nelle cronache dell'Ottavo Giorno in questi mesi è sicuramente Alitalia. Mercoledì l'Europa si pronuncia sul salvataggio, anzi forse è il caso di dire acquisizione di Alitalia. Sentiamo Sergio Nava. Via libera della Commissione Europea all'acquisizione di Alitalia da parte di CAI. Come ampiamente previsto, Bruxelles ha dato luce verde alla cessione della compagnia, definendo illegittimo però il prestito di 300 milioni concesso in primavera dal governo. Il commissario ai trasporti Antonio Tajani spiega a Radio 24 chi rimborserà il prestito allo Stato. Non sarà CAI ma la bad company Alitalia. Con il ricavato dalla vendita a prezzo di mercato l'Italia potrà pagare i suoi debiti, a cominciare da quelli che ha con lo Stato italiano. Tajani, già europarlamentare di Forza Italia, assicura sull'assoluta trasparenza dell'operazione e parla di una vera privatizzazione, riferendosi all'operazione di salvataggio e rilancio dell'Italia. Aggiunge che nella gestione del dossier la Commissione ha potuto contare sulla collaborazione del governo. Sempre a Radio 24, Tajani risponde così alla domanda sui rischi che l'accorpamento di Alitalia ed Air One può portare in termini di concorrenza e costo dei biglietti aerei in Italia. Il riferimento è all'ok dato oggi da Bruxelles agli aiuti pubblici in favore di Alpi. Pigols. C'è la possibilità che cresca il mercato anche in Italia, è una compagnia che è alternativa. È molto piccola, opera su piccole rotte nel nord. Opera nel nord, ma quindi si crea concorrenza con l'Italia nuova, come si chiamerà, e quindi direi che da questo punto di vista io non sono eccessivamente preoccupato. La vendita degli asset dell'Italia sarà controllata da un organismo indipendente scelto di comune accordo con Bruxelles. Non c'è dubbio però che all'Italia in questi giorni, e non solo, fa più notizia per i tanti voli cancellati, per il caos negli aeroporti e per i disagi a cui sono sottoposti i passeggeri che in alcuni casi, direi forse anche a ragione, si ribellano pesantemente. Tra le tante giornate calde di questa settimana abbiamo scelto quella di martedì e ce la racconta questo servizio di Elisabetta Fiorito. Un'altra giornata nera per il trasporto aereo italiano, oltre un centinaio i voli cancellati per lo sciopero del comitato di lotta dei lavoratori all'Italia, le cinque sigle del fronte del no. Il servizio poi rallentato per lo sciopero bianco del personale di volo, ovvero l'attuazione rigida dei regolamenti. Il governo ordina la precettazione e minaccia azioni penali. Il ministro dei trasporti Altero Matteoli. In questo caso abbiamo dovuto non solo precettare, ma poi i miei uffici stanno notificando personalmente a tutti che stanno commettendo una illegalità. Le procure di Roma e Civitavecchia aprono poi un'inchiesta per interruzione di pubblico servizio. L'opposizione contesta lo sciopero, Massimo D'Alema del Partito Democratico. Sono dannose innanzitutto per i lavoratori che le praticano, oltre che per i cittadini, quindi spero che i problemi possano trovare una soluzione attraverso il dialogo, non danneggiando gli utenti. Anche i sindacati confederali, che hanno firmato l'accordo con la CAI, non concordano con la protesta. Guglielmo Epifani, CGL, chiede al governo di intervenire e contesta lo sciopero selvaggio. Radicalismo estremista che non fa gli interessi né della compagnia né dei lavoratori e mette i cittadini contro il futuro della compagnia aerea. Ieri intanto va in scena l'ultimo atto per il momento di questa lunga trattativa, a tratti un vero e proprio braccio di ferro, tra CAI e sindacati. Da Roma, Vincenzo Miglietta. Ultimo passo tra CAI e Confederale in vista del decollo della compagnia aerea italiana. Le parti hanno sottoscritto infatti definitivamente i criteri di selezione del personale e i contratti che saranno applicati ai 12.639 lavoratori che saranno assunti nella nuova Alitalia. Da martedì prossimo i dipendenti interessati riceveranno le relative lettere di assunzione. L'intesa raggiunta prevede che il trattamento mensile complessivo del personale sarà, a parità di attività, non inferiore al 93% di quello precedente. Soddisfatti CGL, CISL, UIL ed UGL, l'accordo, spiega Claudio Genovesi della Filt CISL, supera le ultime incomprensioni. Come quello di aver eliminato qualunque dubbio circa, come dire, le tutele delle lavoratrici madri e anche coloro che momentaneamente si trovano nell'impossibilità di dare la prestazione, cioè coloro che sono inidonei per ovvi e accertati motivi da parte degli istituti pubblici. Il fronte del no prosegue intanto con la sua mobilitazione e il conseguente sciopero bianco. Solo a Fiumicino sono oltre 60 i voli cancellati. Per i disagi ai viaggiatori, l'ENAC è tornata a chiedere ai vertici di Alitalia precise garanzie sulla capacità di far fronte alle agitazioni sindacali. L'ottavo giorno. Giovedì. Come promesso prima della pausa, andiamo negli Stati Uniti per raccontare i primi giorni da presidente, ancora soltanto eletto. Per vederlo in carica bisognerà infatti aspettare il 20 gennaio, i primi giorni da presidente di Barack Obama, che peraltro è già molto attivo. D'altronde i tempi sono quelli che corrono e quindi bisogna veramente darsi da fare. Domenica, tra l'altro, rilascerà la prima intervista ufficiale da presidente alla gloriosa trasmissione 60 Minutes, poi lunedì incontrerà lo sconfitto onorevolissimo John McCain nelle presidenziali. Tra le novità invece rimane la tradizione del messaggio via radio che manderà ogni sabato, oggi c'è il gran debutto, ma a segno dei tempi che cambiano il messaggio verrà anche trasmesso su YouTube. Ma intanto, mentre circola la notizia che Sarah Palin, la vice premier del ticket repubblicano, potrebbe apparire addirittura nella serie televisiva delle casalinghe disperate, dicevo, in tutto questo Barack Obama deve formare la squadra di governo e non sono tutte rose e fiori. Sentiamo Mario Platero. È già polemica sulle nomine dell'amministrazione Obama. La sinistra del Partito Democratico ha sollevato obiezioni sull'idea che circola sempre più frequentemente di affidare il Dipartimento al Tesoro a Larry Summers, ex presidente di Harvard, ex segretario al Tesoro di Clinton, oppure a Tim Geithner, presidente della Federal Reserve di New York, uno degli architetti del piano di salvataggio delle banche. Sono due economisti molto anticentro, sono molto apprezzati in generale sia dal mercato che dall'area centrista del Partito Democratico, ma sono invisi alla sinistra del Partito Democratico. Perché? Perché Summers è riuscito in pochi anni, quando era presidente di Harvard, a mettersi contro ambientalisti afroamericane e donne, ha fatto dei commenti discriminatori, così sono stati giudicati nei confronti delle donne che secondo lui non avevano le doti per studiare le materie scientifiche, mentre Geithner, essendo stato uno dei principali artefici del piano di Bush, non rappresenterebbe certo il cambiamento. Il braccio di ferro è appena partito, la luna di miele per Obama forse sarà più difficile di quel che potevamo immaginare. Adesso facciamo un passo indietro a lunedì, quando avviene l'incontro, il primo ufficiale, tra chi da 8 anni alla Casa Bianca, cioè George Bush, e chi ci sta per entrare. Infatti Bush e signora allora fanno gli onori di casa ad Obama e a Michelle. Ci racconta tutto Sergio Nava. 2 ore alla Casa Bianca, poi i saluti lontani dagli occhi indiscreti di telecamere e fotografi. Obama e Bush, il nuovo e l'ormai quasi ex presidente degli Stati Uniti, si sono rivisti così a soli 6 giorni dalla storica notte elettorale di Chicago, che ha portato il primo afroamericano alla massima carica statunitense. Obama e la moglie Michelle si sono presentati con 10 minuti d'anticipo in quella che sarà da gennaio la loro residenza, strette di mano. Nei saluti di rito a beneficio delle telecamere sono stati i primi fotogrammi offerti al mondo, seguiti dalla consueta passeggiata dei due presidenti sotto il colonnato e il trasferimento nello studio ovale. Il tutto mentre l'attuale First Lady Laura Bush mostrava a una Michelle Obama vestita di rosso sgargiante la sua futura dimora. Obama e Bush, messa da parte l'acrimonia della campagna elettorale, nel corso della quale l'allora candidato democratico accusò più volte l'attuale presidenza di politiche fallimentari, hanno affrontato le questioni più urgenti, dalla crisi finanziaria alle 2 guerre in Afghanistan e Iraq, passando per le questioni di sicurezza nazionale. Obama ha probabilmente ribadito che intende fare pressioni affinché il Congresso approvi almeno una parte del pacchetto di stimolo all'economia prima di gennaio, e lo staff del presidente eletto ha confermato che Obama non sarà presente al vertice della G20 in programma sabato nella capitale federale. Per Obama, oltre ai problemi della crisi economica interna, arrivano subito anche le prime gatte da pelare sulla scena internazionale. A caldo, poco dopo l'elezione a presidente degli Stati Uniti, le sue parole sull'Iran avevano creato qualche tensione, qualche imbarazzo. Poi c'è la questione russa, sempre aperta. Sentiamo Cristina Balotelli. Il Cremlino giudica insufficienti le nuove proposte arrivate da Washington sulle garanzie per lo scudo antimissile che gli Stati Uniti vogliono installare in Polonia e Repubblica Ceca. La notizia trapelata dal Cremlino conferma quanto detto nei giorni scorsi dal ministro degli esteri Sergei Lavrov. La Russia cercherà di risolvere la questione una volta che Barack Obama sarà alla Casa Bianca. Giovedì invece cominceranno a Ginevra dei colloqui tra Russia e Stati Uniti su un nuovo trattato riguardante le armi nucleari. Proseguono intanto le telefonate di Obama ai vari leader mondiali per ringraziarli dopo le congratulazioni post-elezioni. Ieri Obama ha conversato al telefono con Papa Benedetto XVI, proprio nel giorno in cui la Santa Sede lanciava un avvertimento: la ricerca sulle staminali embrionali non serve, mentre va aiutata quella sulle staminali adulte. Ma la questione non è stata toccata nel corso della telefonata. Riprendiamo il discorso prima accennato sulla squadra di governo che sta componendo Obama, perché da qualche giorno circola un nome che non ha certo bisogno di presentazione, che potrebbe diventare il nuovo segretario di Stato, posto che presto dovrà lasciare Condoleezza Rice. Da New York ancora un servizio di Mario Platero. Per la segreteria di Stato, la prestigiosa poltrona da ministro degli esteri, Barack Obama potrebbe considerare Hillary Clinton. Questa è la novità più calda che si è raccolta qui a Washington, dove mi trovo per seguire il G20 e dove i pettegolezzi naturalmente in materia di squadra per la successione dell'amministrazione Bush non mancano. L'idea di affidare la responsabilità di ministro degli esteri a Hillary è da qualche tempo molto calda nell'amministrazione, o meglio nella squadra per la transizione della futura amministrazione Obama. Ci sarebbero stati dei problemi con la possibilità di nominare John Kerry, l'uomo, il candidato che lanciò 4 anni fa Obama e che sembrava fino a poco fa la persona migliore per svolgere quel ruolo. Secondo le indiscrezioni, Hillary sarebbe anche stata a Chicago, avrebbe fatto già un'intervista. Per ora, ripeto, sono indiscrezioni, ma naturalmente sarebbe la prima grande sorpresa delle nuove nomine se davvero Barack Obama dovesse poi scegliere la sua concorrente di sempre per affidarle un incarico così delicato. Venerdì. In una settimana come questa, che è stata caratterizzata dagli scioperi, era quasi inevitabile chiudere questa puntata dell'ottavo giorno con quanto avviene ieri nel mondo dell'università. In tutta Italia si diffonde la protesta contro il ministro Gelmini. Sentiamo com'è andata a Roma in questo servizio di Andrea Viali. Ci blocchiamo il futuro, blocchiamo la città, e questa è la risposta dell'università. Ancora una volta l'onda della protesta studentesca ha invaso le vie del centro di Roma. In 200.000, secondo gli organizzatori, hanno manifestato oggi nella capitale per dire no ai tagli all'università e alla privatizzazione degli atenei. In piazza studenti, ma anche docenti e ricercatori arrivati da ogni regione. In piazza per credere almeno la revisione del decreto Gelmini e il no alla 133, assolutamente. L'università muore se la 133 resta com'è. Vogliamo che la Gelmini ritiri il suo decreto, che è ingiusto per la ricerca, perché la ricerca è già gravemente compromessa e dovrebbe essere aiutata invece che tagliata. Tre i cortei che hanno portato la protesta del mondo universitario sotto i palazzi del potere, la Camera, il Senato e Palazzo Chigi, tutti controllati da un imponente schieramento di uomini e mezzi delle forze dell'ordine. Tutto si è comunque svolto in modo pacifico. Chi oggi non c'è ha sbagliato, ha detto il segretario generale della CGIL Epifani, riferendosi alla CISL, che nei giorni scorsi, dopo un incontro col ministro Gelmini, ha deciso di ritirare il suo sostegno allo sciopero generale dell'università. Ci manca ancora l'ottava notizia della settimana, con la quale vogliamo ricordare una grande cantante che è scomparsa domenica subito dopo una sua esibizione. Adriana Facchia. Erano in 2000 ieri sera al concerto Contro ogni razzismo e anticamorra dedicato a Roberto Saviano. Miriam Makeba era uno degli ospiti d'onore. Sul palco di Baia Verde, nel comune di Castelvolturno, ha cantato scalza per circa mezz'ora con grande intensità. Una carrellata di successi, tra cui la canzone che l'ha resa celebre, Pata Pata. Appena finita l'esibizione, dietro al palco, la Makeba ha avuto un malore. Chi le era vicino ha capito che le sue condizioni erano gravi, una crisi cardiaca. Portata in ambulanza in ospedale, dopo le prime cure sembrava stesse meglio. Poi è sopraggiunta una crisi più forte, Miriam Makeba è morta. Lei, che in passato si era battuta con forza contro il regime dell'apartheid nel suo paese, il Sudafrica, lei che ha speso il resto della sua vita per l'impegno civile, è morta a Castelvolturno, luogo simbolo della lotta alla criminalità. Ha voluto partecipare a tutti i costi al concerto a sostegno di Roberto Saviano, un concerto per il quale la Camorra ha avuto la sfrontatezza di chiedere il pizzo agli operai che montavano il palco. Abbiamo finito con questa puntata dell'ottavo giorno. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi ricordo la mail a cui potete scriverci: ottavogiorno@radio24.it. Da parte di Emiliano Enrico, l'appuntamento è alla settimana prossima alla stessa ora, sempre su Radio 24.